Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 dei Romani, perché leggerò alcuni versetti tratti da questo capitolo, alcuni versetti finali, e poi leggerò alcuni versetti dal capitolo 5. Quindi capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, leggerò dal versetto 16. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni. Dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero, egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. Senza venire meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era sfigurito, aveva quasi 100 anni e che Sara non era più in grado di essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo, ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. O non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, i quali sarà così messo in conto. Per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Mi correggo, ho letto, diciamo, non ho letto proprio i versetti finali, ho letto i versetti finali dei Romani, comunque sono partito ancora prima, quindi quasi sostanzialmente quasi dalla metà del capitolo 4. Allora, fratelli nel Signore, Abramo, noi sappiamo, Abramo nostro padre, sappiamo che fu giustificato per fede. Infatti è scritto che credette a Dio, cioè Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede, la sua fede. Dunque Abramo fu giustificato per fede. Ora queste parole, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice l'Apostolo Paolo che queste gli fu messo in conto di giustizia, non è scritto solamente per lui. Questo è di fondamentale importanza, fratelli. È di fondamentale importanza. Dice infatti Paolo: or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi. Quindi queste parole, quando noi le leggiamo, ciò gli fu messo in conto di giustizia, queste sono le parole, noi dobbiamo sempre tenere presente che sono anche per noi. Cioè stanno scritte anche per noi, ai quali sarà così messo in conto. Che cosa quindi ci sarà messo in conto a noi? La fede. La fede. noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque, la nostra giustificazione, o meglio, la giustificazione che noi abbiamo ottenuto è per fede e quindi per grazia. La giustificazione si fonda sulla resurrezione di Cristo Gesù, perché infatti è scritto che Cristo è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, quindi per giustificarci. Ecco dunque perché la giustificazione che noi abbiamo ottenuto per la fede è perfetta, piena, non ha bisogno di essere integrata da alcunché. Dico questo perché nella Chiesa si sono sempre introdotti dei falsi fratelli che hanno cercato di imporre dei precetti con i quali far credere ai credenti che saranno giustificati anche osservando quei precetti. Per cui questi falsi fratelli insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere, quando invece la Sacra Scrittura afferma in maniera categorica e inequivocabile il giusto vivrà per fede o per la sua fede. Quindi noi, quando parliamo della giustificazione, facciamo riferimento alla resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, perché egli è risuscitato proprio per questa ragione, affinché noi fossimo giustificati. Dunque noi siamo giustificati. Un giorno abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e appunto la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Cioè Dio ci ha imputato la giustizia senza opere. Ora, noi da quel momento, abbiamo, diciamo, continuato a credere. E fino a questo giorno, naturalmente, noi crediamo. E siccome che abbiamo la stessa fede che avevamo nel momento in cui credemmo per la prima volta, è evidente che ancora in questo preciso momento noi siamo giustificati per fede, come lo eravamo un secondo dopo che credemmo a quel tempo, siamo ancora oggi giustificati per fede dopo, diciamo, del tempo. Io, diciamo, sono stato giustificato dal Signore, ho creduto nel Signore e quindi sono stato giustificato nel 1983. Era l'agosto del 1983, diciamo verso la fine dell'agosto 1983 in Inghilterra. Bene, io credetti nel Signore e ciò mi fu messo in conto di giustizia. Oggi, sono, diciamo, dopo 41 anni circa, ancora oggi io sono giustificato per fede. Questo, fratelli, lo dovete sempre tenere a mente. Qualcuno dirà, ma come, dopo tutti questi anni, ancora ti dichiari giustificato per fede? Certo, mi dichiaro ancora oggi giustificato per fede perché la Scrittura dice che il giusto vivrà per la sua fede, non per la sua fede più le opere buone. E allora le opere buone che hai compiuto in tutti questi 41 anni? Sono opere buone, per le quali in quel giorno poi riceverò un premio da parte del Signore, una ricompensa, ma sicuramente la giustificazione che io ho è per fede, perché la giustizia che il Dio ci imputa è la sua giustizia ed è una giustizia perfetta, non è che ha bisogno di essere integrata da nostre opere buone, nella maniera più assoluta. Coloro che insegnano dunque che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere sono uomini che annullano la grazia di Dio, sono uomini che sovvertono l'Evangelo della grazia, non sono dei nostri, vanno assolutamente tenuti lontani dalla Chiesa, se sono in mezzo alla Chiesa e vengono individuati vanno cacciati via immediatamente, perché poi sono gli stessi che insegnano che la vita eterna non è il dono di Dio, ma è una paga che Dio dà a coloro che se la meritano. Sono gli stessi che dicono che loro ogni volta che si inginocchiano, che pregano in ginocchio, si appropriano di un pezzo della vita eterna. Sì, sono gli stessi, quindi vanno assolutamente allontanati dalla Chiesa, con loro non bisogna mettersi, sono nemici della grazia di Dio. Ricordatevelo questo, e torno a ripetere che la Chiesa Cattolica Romana ci insegna che degli uomini possono parlare della grazia di Dio, possono anche conoscere cos'è l'Evangelo, possono anche definirsi cristiani, ma essere sotto il peccato e non sotto la grazia. Perché? Perché? Perché non hanno creduto. Perché non hanno creduto nell'Evangelo e quindi sono privi della grazia di Dio. Sono privi della giustificazione ed essendo privi della giustificazione sono anche privi della vita eterna, ecco perché parlano in questi termini, nel senso che loro parlano della vita eterna come se fosse qualcosa che appunto un cristiano si deve guadagnare, appropriare con appunto, diciamo, mediante opere buone, ma se fosse così allora la vita eterna non sarebbe più il dono di Dio. Ma la Sacra Scrittura dice che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, perché questa vita è nel Figliolo. È nel Figliolo la vita eterna, quindi chi ha il Figliolo di Dio ha la vita. Ma è anche vero che chi non ha il Figliolo di Dio non ha la vita. Dunque, la giustificazione che noi abbiamo è per fede. Infatti dice Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questa naturalmente è giustificazione, a cagione della quale Cristo Gesù è risuscitato dai morti, ci permette, ci mette in grado di avere pace con Dio. È proprio perché siamo giustificati che abbiamo pace con Dio, perché noi quando non eravamo giustificati, ossia quando eravamo sotto il peccato, noi non eravamo, diciamo, in pace con Dio, noi eravamo infatti nemici di Dio, l'ira di Dio era sopra di noi, ma mediante la giustificazione, diciamo, siamo stati riconciliati con Dio ed ora abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi. Vedete? Noi appunto siamo nella grazia, siamo sotto la grazia di Dio ci avvolge, ci circonda e in questa grazia noi siamo salvi, quindi state attenti a coloro che vogliono portarvi lontano dalla grazia, o meglio, vogliono farvi scadere dalla grazia facendovi rinunziare a Cristo, che è il termine della legge, ve lo ricordo, Cristo è il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. Costoro che appunto si sono sempre insinuati nella Chiesa, ve lo ripeto, non è che accade qualcosa di nuovo oggi, non c'è niente di nuovo sotto il sole, costoro appunto che insegnano che la giustificazione non è solo per fede, ma è per fede e per opere, ricordatevi, vi istigano, vi incitano a scadere dalla grazia, a rinunziare a Cristo. Infatti loro sono senza Cristo. Loro sono senza Cristo, sono privi della grazia di Dio. È terribile, lo so, ma questa è la realtà e va detta così come è. Dunque noi siamo nella grazia e nella grazia stiamo salvi. Siamo veramente grati al Signore che dopo tanto tempo ancora siamo saldi nella grazia e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Sì, perché vedete, noi siamo stati, come dice la Sacra Scrittura, salvati in speranza. In speranza. E noi proprio aspettiamo la gloria di Dio che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Infatti Paolo ne parla quando dice ai Romani: io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Quindi c'è la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. E questa è la gloria che appunto deve essere manifestata a nostro riguardo, sarà manifestata in quel giorno, quando Gesù apparirà dal cielo. Ecco perché noi siamo stati salvati in speranza. E giustamente Paolo dice: la speranza di quello che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe io ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Infatti noi stiamo aspettando, fratelli, stiamo aspettando, è qualcosa di meraviglioso, stiamo aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Sì, perché il nostro corpo appunto sarà redento dalla corruzione, quando appunto Gesù apparirà dal cielo. E noi abbiamo conosciuto questa speranza mediante la predicazione dell'Evangelo, perché l'Evangelo ci dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, nell'Evangelo è contenuta la resurrezione di Cristo, e come il Signore e Dio ha risuscitato, perché appunto è proprio questo che ci dice il Vangelo, praticamente, che noi apprendiamo dal Vangelo, che Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Dice bene l'Apostolo Paolo ai Corinzi: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Quindi, i morti in Cristo, quando Gesù apparirà dal cielo, risusciteranno incorruttibili, immortali, gloriosi, e quindi otterranno un corpo simile al corpo glorioso del nostro Signore Gesù. Sarà appunto conforme quel corpo che otterranno alla risurrezione dei giusti, sarà conforme al corpo della sua gloria. Ma naturalmente questo riguarderà anche coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, perché essi, benché non vedranno la morte, saranno mutati, ed anche loro, appunto, anche loro otterranno, diciamo, un corpo glorioso, immortale, incorruttibile. Ebbene, noi aspettiamo quello che non vediamo, e l'aspettiamo con pazienza. Ecco dunque perché ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Vedete, noi un giorno eravamo senza speranza, ma Dio per la sua grazia ci ha dato una buona speranza, che è la speranza della gloria di Dio. Quindi, prima eravamo senza speranza, adesso abbiamo una buona speranza. E in questa speranza noi ci gloriamo. Noi infatti ci gloriamo nel Signore di avere questa speranza. È meraviglioso avere questa speranza. D'altronde la fede è certezza di cose che si sperano. E noi appunto abbiamo questa speranza che sappiamo si compirà a suo tempo. Abbiamo la certezza perché Dio ha fatto delle promesse, e queste promesse sono fedeli e veraci e si compiranno, perché Dio vigila sulle sue promesse per mandarle ad effetto. Quindi noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ma badate bene, non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Nelle afflizioni che patiamo nella carne, mentre appunto abitiamo in questa tenda. Noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sì, anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Ecco, vedete l'effetto dell'afflizione. Ora Dio fa sì che noi siamo afflitti, perché Lui crea l'avversità. E crea l'avversità nella nostra vita affinché noi siamo afflitti, ma affinché noi diventiamo pazienti, perché noi abbiamo bisogno di pazienza. Abbiamo bisogno di pazienza per ereditare le promesse del Signore. E il Dio, fa sì che questa pazienza sia prodotta in noi mediante l'afflizione. Ecco perché colui che passa per l'afflizione impara ad essere paziente. Sì, è proprio così. Soffrendo a motivo di Cristo si impara ad essere pazienti. E chi è che di noi non ha bisogno di pazienza? Quindi vedete, l'afflizione ha questo obiettivo, quello di produrre pazienza in noi. Come dice Giacomo, il fratello del Signore, nella sua epistola: dunque, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Vedete dunque che mediante l'afflizione la nostra fede è provata, è messa alla prova. Ma la prova della nostra fede appunto produce pazienza. E la pazienza cosa fa? Compie appieno l'opera sua, no? Cioè l'opera del Signore in noi, onde noi siamo perfetti e completi, di nulla mancanti. Vedete dunque come Dio, che è savio di cuore, abbia veramente formato un piano meraviglioso nei nostri confronti, cioè nei confronti di noi che siamo suoi figlioli, in quanto Lui ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Vedete il piano di Dio, fratelli, il piano di Dio verso di noi comprende appunto le afflizioni. Ecco perché il salmista diceva: è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Sì, nell'afflizione si impara ad ubbidire al Signore, si impara a essere pazienti, perché vedete, noi siamo impazienti un po' per natura, perché spesso l'abbiamo dimostrato, dobbiamo confessarlo davanti a Dio, abbiamo dimostrato che volevamo qualcosa subito, che non ci andava di aspettare, ma il Signore ci ammaestra invece ad essere pazienti, noi dobbiamo essere pazienti, è come quando preghiamo. Il Signore ci ha comandato di chiedere, allora dice chiedete vi sarà dato, ma non è che c'è scritto che ogni volta che noi chiediamo una cosa al Signore, quella cosa ci sarà data lo stesso giorno o il giorno dopo. Talvolta le cose che noi chiediamo al Signore passa veramente tanto tempo prima che le riceviamo, è perché il Signore naturalmente si riserva di risponderci in accordo naturalmente con la sua volontà, e allora dobbiamo pazientare, dobbiamo aspettare il Signore, aspettarlo in silenzio. È una buona cosa aspettare il Signore in silenzio, senza sbraitare, no? Perché alcuni prendono piacere a mormorare contro Dio, e poi naturalmente vengono puntualmente giudicati, puniti da Dio. Contro il Signore non si mormora mai, non si parla mai contro Dio. Dio è santo, Dio è giusto, l'opera sua è perfetta, siamo noi che falliamo in molte cose, Dio non fallisce in alcuna cosa. E quindi noi lo dobbiamo temere, dobbiamo tremare nel suo cospetto e non farci prendere dall'impazienza, perché quando uno si fa prendere dall'impazienza parla contro Dio, ricordatevi, e quelli che parlano contro Dio poi si attirano l'ira di Dio, quindi dobbiamo essere pazienti, e appunto l'afflizione produce pazienza, e da considerare questo. Nell'afflizione, fratelli, il Dio è vicino a noi. Non è lontano il Signore quando noi siamo afflitti. Il Signore è vicino a noi e ci consola. Noi abbiamo la certezza che il Signore ci consola in ogni nostra afflizione. Proprio in ciascuna delle afflizioni che noi patiamo, il Signore appunto ci consola. Infatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Corinto? Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Vedete dunque che noi abbiamo dalla nostra parte il Signore Dio, che appunto ci consola quando noi siamo afflitti, e ci consola per questa ragione, affinché poi noi, mediante la consolazione che Lui ci impartisce, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Anche qui vediamo la sapienza del nostro Dio, vedete quanto sia perfetto il piano di Dio verso noi Suoi figlioli. Quindi dobbiamo veramente rallegrarci anche nell'afflizione, sapendo che cosa produce appunto in noi l'afflizione. Poi ricordiamoci anche quello che dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. L'Apostolo Pietro dice questo, dice: nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode e gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, vedete, la prova della nostra fede è preziosa, non è da disprezzare nella maniera più assoluta. perché poi in quel giorno, quando Gesù apparirà dal cielo, la prova della nostra fede risulterà nostra lode, gloria e onore. Ecco perché siamo chiamati ad essere pazienti nell'afflizione. Fratelli, ricordiamoci sempre di Giobbe, che era un uomo giusto, un uomo che temeva Dio, fuggiva il male. Ricordiamoci che Giobbe viene preso come esempio di pazienza, infatti dice, avete udito, allora ecco noi chiamiamo beati, dice Giacomo, fratello del Signore, ecco noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza, avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Vedete dunque? Abbiamo sentito parlare della pazienza di Giobbe e quindi dobbiamo imitare Giobbe in questo, no? Cioè nell'essere paziente, nell'afflizione, e appunto in mezzo alla prova della nostra fede. E la pazienza, fratelli, che cosa produce? La pazienza produce esperienza e noi tutti abbiamo bisogno di esperienza. Perché l'esperienza poi ci rende maturi. Quando noi ci siamo convertiti, noi eravamo immaturi, eravamo, diciamo, dei neonati in Cristo e abbiamo avuto bisogno dei bambini in Cristo, abbiamo avuto bisogno del tempo per crescere, per maturare. E mediante l'afflizione, appunto, si matura. Perché l'afflizione produce pazienza e la pazienza esperienza. E l'esperienza speranza. Vedete? Speranza. Fa parte tutto del piano di Dio, un piano veramente meraviglioso. E la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete dunque la ragione per cui noi ci gloriamo nelle afflizioni che patiamo a motivo di Cristo? E poi ricordiamoci che in mezzo all'afflizione noi sperimentiamo la potenza di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte, diceva l'Apostolo Paolo. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Infatti in mezzo all'afflizione, in mezzo alla prova della nostra fede, ci fortifichiamo. È un dato di fatto, cioè dall'afflizione da cui il Signore ci libera, perché dice molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera tutti, dall'afflizione il giusto ne esce fortificato. Ecco perché poi talvolta ci domandiamo, ma come mai, Signore, mi succede questo? Allora domandiamoci, che cosa compie? Cioè, facciamoci delle domande. Naturalmente, prima di tutto, ci dobbiamo domandare se sia veramente una prova della nostra fede o un castigo, perché naturalmente se noi abbiamo peccato contro Dio, poi Dio ci castiga, Ci castiga, ci flagella, ci corregge. O altrimenti una prova, come appunto nel caso di Giobbe. Nel caso di Giobbe fu una prova, Giobbe era un uomo giusto, un uomo che temeva Dio, fuggiva il male, quindi quelle sciagure che gli piombarono addosso non furono a motivo di peccati che lui avesse commesso o perché era un malvagio e così via, no, perché il Signore volle provarlo, Allora, stabilito che appunto l'afflizione che noi patiamo è proprio una prova e non un castigo, perché se è un castigo ci dobbiamo ravvedere, e convertire dalle nostre vie malvagie, ricordiamocelo sempre, ma se è una prova, naturalmente, da questa prova ne usciremo, diciamo, fortificati. Perché dice Paolo, quando sono debole, allora sono forte. Sapete, le migliori preghiere che noi abbiamo fatto, se voi ci riflettete, sono quelle che abbiamo fatto quando il nostro cuore era spezzato, quando eravamo afflitti, quando eravamo nel bisogno, quando eravamo perseguitati, no? In particolare momento, quando eravamo calunniati. Quando è che abbiamo fatto le migliori preghiere? È così, eh? È così. Quando è che ci siamo sentiti più forti? Quando appunto ci siamo trovati, diciamo, nell'afflizione. Guardate per esempio il salmista, avete notato che meravigliosi salmi, eh? Ci sono dei salmi veramente scritti dal salmista dopo che è uscito, diciamo, da una distretta, dopo che il Signore lo ha liberato. O mentre si trovava nell'afflizione, che meravigliose parole che appunto ha proferito il salmista in mezzo all'afflizione. E così avviene per i giusti, no? Quando vengono appunto afflitti, perché poi Dio ci affligge nella sua fedeltà, avviene proprio che i giusti si fortificano, dice bene Paolo. Quando sono debole, allora sono forte. Dunque bisogna parlare delle afflizioni nella Chiesa, non bisogna vergognarsi di parlare delle afflizioni, molti non vogliono parlarne, molti, diciamo, non vogliono sentire parlare di afflizioni, perché pensano che se appunto ci sono molti pastori oggi che non vogliono assolutamente che si parli di persecuzioni e di afflizioni da subire a motivo dell'Evangelo. Per quello non predicano l'Evangelo, perché l'afflizione sopraggiunge quando uno professa l'Evangelo. La persecuzione perché arriva a motivo dell'Evangelo. Ed ecco perché l'Evangelo oggi, diciamo, da molti che si definiscono cristiani non viene annunziato al mondo. Perché? Perché loro non vogliono essere perseguitati a motivo della croce di Cristo. E allora dicono, sai che faccio? Ma chi me lo fa fare a me? Devo predicare un messaggio che mi attira veramente l'odio e l'ira del mondo? Ma perché devo patire? Ma perché devo essere perseguitato? Perché devo essere afflitto? E allora che fanno? Sostituiscono l'Evangelo con un altro Evangelo. Infatti molte chiese annunciano un altro Evangelo proprio per questo, per non essere perseguitati. Infatti il mondo non le perseguita, sì, definiscono chiese, ma il mondo non perseguita queste chiese, perché queste chiese, non predicando l'Evangelo, non si attirano l'odio del mondo, anzi, si attirano il compiacimento del mondo, perché appunto al mondo poi piace il loro messaggio. È un messaggio praticamente che non dà fastidio al mondo, non dà assolutamente fastidio, non gli crea alcun turbamento, come invece crea turbamento al mondo il Vangelo. Perché il Vangelo, fratelli nel Signore, ha questo potere di fare sentire, diciamo, male i peccatori, di turbarli praticamente. Perché l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Quindi l'Evangelo sottolinea che l'uomo, diciamo, è un peccatore. L'Evangelo fa comprendere immediatamente che l'uomo è un peccatore, è schiavo del peccato. E con le sue opere, con i suoi sforzi, non può assolutamente espiare i propri peccati che ha commesso contro Dio. E quindi ha bisogno del sacrificio di Cristo, perché Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Capite? Allora questo il mondo non lo vuole sentire, perché il mondo pensa di potersi, diciamo, guadagnare di potersi meritare il, diciamo, il perdono dei propri peccati. In che maniera? Facendo del bene, qualche opera buona, qualche opera filantropica. Ma l'Evangelo invece dice che l'uomo senza Dio, l'uomo senza Cristo, davanti a Dio è un peccatore pieno di peccati, quindi pieno di debiti, che ha bisogno di essere purificato dal sangue prezioso di Gesù Cristo. E quindi davanti a questo messaggio l'uomo, naturalmente senza Dio, si arrabbia. E poi l'Evangelo dice che Cristo è risuscitato da morte il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Fratelli del Signore, questo è anche di fondamentale importanza, perché il mondo non sopporta sentir dire che qualcuno è risuscitato, in questo caso naturalmente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risuscitato dai morti proprio affinché lui sia giustificato davanti a Dio. No, l'uomo dice, ma io posso giustificarmi da solo, posso giustificarmi facendo del bene, facendo delle opere, capite? E allora vedete che la morte espiatoria di Cristo e la sua resurrezione danno tremendamente fastidio a questo mondo corrotto, a questa generazione storta e perversa. Come reagiscono quindi quelli del mondo? Perseguitando, affliggendo quelli che annunziano l'Evangelo. Ecco perché molti, diciamo, assolutamente non vogliono predicare l'Evangelo, perché non vogliono essere perseguitati. Quindi costoro si vergognano dell'Evangelo e Cristo si vergognerà di loro quando verrà nella gloria, appunto, del Padre e del Padre suo. Questo, fratelli, sapete, ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché sono tutte cose, queste qua, collegate tra di loro. Ecco perché, diciamo, l'Evangelo è stato sostituito da un altro Evangelo. È qualcosa che non è nuovo, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Questo già accadeva anticamente. La ragione è sempre quella: cercare di piacere al mondo, guadagnarsi il favore del mondo. Ma sapete, quelli che vogliono piacere al mondo, quelli che vogliono essere amici del mondo, poi, costoro diventano nemici di Dio. Lo sapete cosa c'è scritto in Giacomo? Ve lo ricordo. Guardate cosa dice Giacomo. Giacomo dice nel capitolo 4, dice: «O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio». E come vogliono essere amici del mondo? Predicando un altro Vangelo. Un Vangelo, appunto, che è diverso da quello che predicavano gli apostoli. E quindi presentano un altro Gesù, presentano un altro Dio, presentano un'altra notizia. Tutto questo perché vogliono essere amici del mondo, ma però facendo così poi queste chiese si sono rese nemiche di Dio. E appunto poi il Signore manifesta la sua ira in mezzo a queste chiese castigando i ribelli, perché anche questo va detto. Nessuno pensi di diventare amico del mondo e poi non andare incontro ai giudizi di Dio. Chi diventa amico del mondo va sicuramente incontro ai giudizi di Dio, perché Dio è giusto, fratelli nel Signore. Dio è giusto, non è come dicono molti: Dio è cattivo, il vostro Dio è cattivo perché punisce. No, Dio punisce perché è giusto, ma lo vogliono fare passare per un Dio cattivo, ma non è cattivo il Signore è buono. Ma naturalmente il Signore, essendo giusto, chiaramente esercita la sua giustizia, punendo coloro che meritano di essere puniti. E tra coloro che meritano di essere puniti ci sono quelli che vogliono essere amici del mondo. E dunque, vedete, ecco perché poi non c'è bisogno di parlare dell'afflizione. Perché? Perché non ci sono afflizioni, non ci sono persecuzioni a motivo dell'Evangelo. E quindi non si sente proprio la necessità, appunto, di parlare alla Chiesa delle afflizioni. Una Chiesa che non predica l'Evangelo, fratelli del Signore, è una Chiesa che non è perseguitata. Non viene perseguitata a motivo dell'Evangelo. Gli apostoli perché furono perseguitati? Perché erano perseguitati? Vi siete mai chiesti perché l'apostolo Paolo, parliamo dell'apostolo Paolo, era perseguitato dai giudei? Perché predicava l'Evangelo? Perché Pietro era perseguitato? Perché predicava l'Evangelo? Gli apostoli furono perseguitati per questo, a motivo dell'Evangelo di Cristo che essi annunziavano. Ma se viene a mancare la predicazione dell'Evangelo, ma quale persecuzione mai ci potrà essere? Non ci potrà essere nessuna persecuzione, nessun insulto, nessuna ingiuria. Ma no, perché non darai fastidio a questo mondo corrotto, a questo mondo che è un mondo di tenebre. Il mondo nemmeno ci farà caso a te. Ma perché? Perché non predichi l'Evangelo. E quindi, cioè, non c'è bisogno il mondo di perseguitare qualcuno che non predica l'Evangelo. Il mondo odia chi predica l'Evangelo. E dunque queste chiese, non predicando l'Evangelo, non sono perseguitate. E quindi, non essendo perseguitate, che bisogno hanno di parlare delle afflizioni? Noi invece abbiamo bisogno di parlare delle afflizioni alla Chiesa. Perché? Perché siamo perseguitati dal mondo, siamo odiati dal mondo, siamo afflitti dal mondo. A motivo di che cosa? A motivo dell'Evangelo. Sì, sempre a motivo dell'Evangelo. Quindi io vi esorto, fratelli nel Signore, a ritenere questo insegnamento sul valore dell'afflizione, perché esso è utile a capire quanto, diciamo, alla fine sia un bene per la Chiesa essere afflitta. Sì, è stato un bene per me l'essere afflitto. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte abbiamo detto queste, ripetuto queste parole che sono scritte nei Salmi? Le abbiamo ripetute tante volte dopo che il Signore ci ha liberati da un'afflizione. È stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Sì, perché se ne siamo usciti più savi, ne siamo usciti più forti, ne siamo usciti più pazienti. Vedete? E dunque, fratelli, continuiamo a gloriarci nella speranza della gloria di Dio, ma anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.